Ciao, sono l'officina della Camomilla e veniamo da Milano. Ma in realtà, sti cazzi, sì, ma in realtà è da Siracusa. Cari miei difessi, svegli metto le sue targa bianche che si sparcano e siate vissuto. E si sparcano i suoi vecchioni di vino, si sparcano le fragole di rase nella lista cioccolato. Un supermercato uno stivo vuoto, troppo facile vivere di notte, troppo facile vivere si dorme sulla gentilissimo stata sangue il giorno di prossima sera, gentilissimo stata sangue il giorno di prossima sera, gentilissimo spacca un labbro il giorno di prossima sera, gentilissimo spacca in faccia il giorno di prossima sera. Cetamina mentre passa tra fulmini e mirtilli sul cavallo della spesa t'accompagno piano. Racconterò preciso i tuoi lividi e tu mi disegnerai una discoteca sul polso, ballando e contemporaneamente piangendo. Brucia la bocca, sangue da cuore, stato di prendere a calci, soffro tutto solo. I lattini nelle mani, una strada di buio, i lattini nelle mani, una strada di buio, i brillantini nelle mani, sulla galera. Preservativi per le stelle, le mie baffie a matita sporchi di macchina, fuori dal sexy shop, parlami di rapito, mentre giochiamo a calcio con le pigne. Grazie! Si sente? Sì, che si sente. Aspetta, è lui. Non ho mai indossato un paio di Buffalo. Se cado sulle scale mi puoi rubare il banconote. La fermata è più attiva di te, tu non fai mai caso all'architettura. Devi studiare Marco Gene, non puoi morire in un rettangolo. L'altalena è un buco nero blu, il dispiacere si muove come una lavastoviglie. È un insetto sul braccio e balli in garage a rattentarmi. Ho trovato la sambuca in cantina, c'è un antichiamo sulla traversa della barca senza te. Su Marlo devi studiare anche per me, non puoi morire in un ricco santo. Il castello di Lenrico Nero a tua hai steso il pomeriggio sul filo, io ho messo le mie. pastiglie, pastelli. Pastelli. Pastelli, rainbow. Con un colpo di spugna cancellavo le farmacie. Ti disegno una tigre, un coltello di plastica per spaventare i bambini e convincerli a ucciderti. Una manovra tenacia, intorno per sventilarti. Una manovra tenacia, intorno per sventilarti. Ti farò la guanda per pastelli al cielo. Ti farò la guanda tutta colorata. Come te la farò io la guanda, non te l'avrà fatto nessun altro. Come te la farò io la guanda. Scappata a Belgrado su una bici che perdeva colore. Quando piove su un faglio le matite non restano. Sei tornata da me con gli occhi azzurri e i capelli rossi. Vuole l'amore quella che è più resta, solo che vuole l'amore quella che è più resta. Parola. Grazie. Ci stava lo stesso. No, questo vai. Non ci sta. È partita la bomba. Cosa mi ha detto il cielo che ti è caldo, una vecchia tocca di mettere un sacco sulla tua temporale. Le nuove che mi dettano le maglie di pistello e sono sei giorni che non si muove per me. verità. Grazie. Morte. Una canzone sulla morte. Ti bacerai soltanto ci baci per verità. C'è la morte, per colazione sconfiggo gli stupidi con un chicco da pasticcere. Da mangiare, ma sono triste, il marinaio della panchina mi guarda malissimo. Ma la mia danza è la solitudine la mia spiaggia, ci sono morta 10 volte. Ma calcoli sempre male le ricorse e scivoli sul pavimento posto di canzoni. Metti fiore, sei finita al pronto soccorso. Ti imbarazzi se balliamo davanti alle macchinette. La mazza di zanzara, tanto la se sei sperchiato. La mia ragazza è la solitudine, la solitudine. Ci sono morta 10 volte, nell'azzurro di cazzi. La mia ragazza ha la solitudine, la solitudine. Di mano in cancello sono morta 10 volte, nell'azzurro di cazzi. Niente solitudine per voi. Devasta. Bellissima questa. Sulle scarpe del mondo sono scappato da tua mamma correndo fino alla chiesa qua dietro con il tuo smalto nei tacchi palleggerò come una palla di vetro. Ti ho masticato il cervello, mi sa che lo faccio, mi sa morti giorni sulla 50. Voglio ascoltarmi l'alba, devo tornare a casa, che non trovo. Uso la nuvola come uno specchio, e rimpiango quel tempio, e mi parlavi dei fiori sul corpo, legare gli sputi, mi asciugavo le lacrime. Dai capelli di Rio de Janeiro ho passato il mare di Cinetta prima che finisse il giorno. Vieni sulla 50, voglio scordare l'alba, devo tornare a casa pieno di droga morti siderati sull'erba. Ho la grande, la grande, questa birra di merda. Bravissimi. Aspetta che... Com'è? Si sente? Sì. Si sente bene? Benissimo, si sente. Ciao radio. Beh, speriamo che almeno loro non... ci tirino le pietre. Le mattonelle. Zeta. Zeta. Scrivo con la lingua, poi spacco la lettera e con le lingue costruisco una ragazza. Zeta mangia il quadro, la tassata è così, non mi piace lì, che mi uccide con le gambe. Zeta sei la nasca, come i tuoi vestiti, sei un'assassina, quando so chi la fatte la testa. Della musica non me ne faccio un cazzo, preferisco una panchina delle cioccolate al carico, che voglio un'altra le pagliette di caramelle e carnate e guardate anche sulla bocca del cammino. Zeta, ti porto le mostre di castello, magari se solo così sono di fuori della stazione, lontano di discoteca. Devo come un yo! Cha cha cha della segretaria. Vabbè, innanzitutto ringraziamo l'Officina Babilonia per averci ospitato, a Maria e a Ciccio e anche l'altro ragazzo che ha fatto l'esposizione prima interessantissima sull'uso di internet che spaccava tutto. Adesso c'è Agatha Brioche. Bella. Hai capelli in cucina, esce un rubato, ciao che si campa, il pomeriggio si mani come mani c'è il colato. Alla che balla, ha dei cavi in tasca, vuole fare una strada al qualificio, si concentra, fabbrica una bomba con i deodoranti, passami un fiammifero. Un buco in bocca, grazie. Una canzone sulle bombe e sui panifici. Ruspa. Soprattutto sulle bombe. Vuoi saltare? Ah. Cosa? Di tapping. Beh, facciamo. Ma l'ha detto siamo finiti? Sì, l'han detto, ripetete un po'. Oh, grazie, grazie. Vai, e falla. Siamo pieni di droga, siamo pieni di droga, siamo pieni di droga, siamo pieni di droga, siamo pieni di droga, siamo pieni di droga, siamo pieni di droga, siamo pieni di droga, siamo pieni di droga. Io sono contento, io non so cazzo per te. Basta la testa sul tutto, io sono in contra. Siamo pieni di droga, e siamo pieni di droga. Siamo pieni di droga, siamo pieni di droga, siamo pieni di droga, siamo pieni di droga, siamo pieni di droga, siamo pieni di droga. E viva la droga. I ravani che portano le scarpe a strada ti porterà pace, pace, pace della Russia signora. Ti tornerai da me. Ti porterà pace, pace, pace della Russia signora. Ti tornerai da me. La signora delle sigarette sotto i panni, la quante sono a darle le giornate. Adorire in mezzo alle quattro davanti sì, ti tornerai da me. Io adorire in mezzo alle quattro davanti sì, ti tornerai da me. La legge morale di tutto di me, la forza di farlo sempre di me. La legge morale di tutto di me, la forza di farlo sempre di me. La legge morale di tutto di me, ti porterò sul braccio della Russia se mai. Tu mi tornerai da me. Ti porterò sul braccio della Russia se mai. Tu mi tornerai da me. Ah, sì. Gentilissimo. Si era effetti del mercato. Dai graffiti del mercato comunale. Sulla stessina che guida sotto alla scuola, a cavallo che mi mostro da una testa che è popolare, che mi fa proprio a tutti gli studenti fatti nel scuola. La mia tedesco, il nostro amore è un serpente grasso, viviamo le vostre ginocchia scontate, a tutto contatto la mia stagione, le salve le ferrovie, e mi inganna la tastiera, e i tassi mi penetrano in di scale a chiocciola, faccio uscirà, dai graffiti del mercato, inominabile del pomeriggio bianco, delle pancine che sono stanza, quando fumi ruggisci il mare e la chiamarlo la brina di barca entra, saltiamo su barca vela come gira il disco di una maca. Grazie. Questa si chiama Charlotte. Prima o poi ci tornerai sul latte di Charlotte, 13 capperoni, schiaffo, tazze, latte, mandorla. Prima o poi ci tornerà su quel latte di Charlotte. Sui miei discorsi fuffa fuori, ma la maglietta te la sfili apposta. Bye. dentro una testa rita. Prima poi ci tornerò, solo a terciarlo. Ora mi sono soffitto solo, agili come tutto la tigre. Mezzogiorno ragazza, andiamo a fare colazione. Da qui in giro si fa presto, che non lo dici semmai. Non andarci a fare dai, un po' di media subito a notte. Di mezzola, di verità, stanno accendendo il fuoco. Lunga. Allora, vi presento la band ufficiale per adesso. Marco al basso, quartiere Piola, San Gemignano, eccetera. Sei un figo. Franco da Chiavari, chitarra, corico, voce principale, capelli. Beato lui che lì è. Simpatia, energia e tastiere. Claudio Tarantino. E convenienza. E ampio parcheggio anche. No, ricordiamo che noi abbiamo i dischi on make offerta libera, quindi anche gratis volendo. Se volete ce ne abbiamo quanti più. Ce ne abbiamo una scorta. Chiedete a Rocca. Rocca! Rocca! Dov'è Rocca? È là, è quell'uomo lì, quello che è uscito. Vabbè, ok, qual è? È la nostra banca di CD ufficiale. Allora, una lunga serie di colazioni sotto il mandorlo. Pareti spaccate, aprimi la bocca e riempila di terra. Fammi sentire il gusto del mio prato rotto, dove ci crolla addosso lo smeraldo sulle giacche e dentro le teste morte di una lunga serie di colazioni sotto un mandorlo. Adesso sovrabbastanza solo del vino, vado alla ta ta ta ta. Il mattino, il mattino, il mattino verde mela. Il mattino, il mattino, il mattino verde pera. Adesso sono abbastanza morco di vino. Calcolare il rapporto che c'è tra il mio corpo e le mie ossa. Hai presente la straccia bella? No, dico, Hai presente la stracciatella? One, two, three, four! Solo un taglio con la carta fra le dita e il sangue che cade sulle lettere e le lettere che affogano nel niente bianco. La la la la. La la la la. Così passa tutto. La notte sperirai in un bicchiere che dopo la vado a pisciare contro l'alba, contro l'alba, contro l'alba. Ok, questo è il penultimo brano, è un brano natalizio. Si arrampica sul tronco e vede solo il golfo di una bufera di cappiani. Come farlo sui miei vestiti sono sangue. Questa è l'ultima. Questo è l'ultimo brano. Ciao Taz. Ciao ragazzi. Ce ne torniamo nella grigia Milano. Tutti nella grigia. regole, falta principio a curta, si destina a fino al bordo, ma nel cruscanto ci sono certo il giornale, il profilo se le mani caduti, con il tuo guardo come acqua, con il cuore da ritaglio e di libertà. C'è sempre tanto tempo, ma solo brutto tempo, il silenzio è pieno, vecchi di leone, grandi con le piante, affetto di limone, la voglia di Trentino, e la fottuta scomparsa del baratto. Ascolto solo musica netta, ribalto poeti, salto la scena, e soprattutto la nausea di vedere nessuno. Le tue magliette di lupo, parli come un architetto, che professor di città, con il posto del cuore, sei sempre in ritardo come me, per stare davanti al buco di via Washington con due granite di mela. Compriamo tutte le macchine che passano, infine prenditi di lasciare. Io preferisco saltare la sera sui tappeti elastici, mentre canti le battaglie di Federico Rossi. Quando canti la gesta degli anni 90 dei tuoi ragazzi alcolizzati, e corri come una disperata sotto tutti i portici, e inciampi come una disperata addosso a tutti i problemi più educati. La resistenza dei fiori sotto il temporale. Le tue storie d'amore hanno la resistenza dei fiori sotto il temporale. Grazie! Se ci sono portato però un altro pezzo, noi lo facciamo volentieri. Si chiama La bicicletta. Abbiamo passato un Natale squisito, fatto di cessi chimici rovesciati. Se ti parto all'acquario, bisogna scavalcare da dietro. Il tuo ragazzo cammina pensieroso sulle calcine, mia madre morta prepara una torta, io sto lì con la faccia sulla sedia che guardo un gatto alla TV per parlare. sera ho parlato di sposo tutta la sera. Che oramai sogno incubo di femmine e cristalli. Che oramai sogno incubo di autobus e di dadi. Che oramai sogno incubo da tavolo. Ci serve un paio di farmaci per tagliarti le scarpe e le idee. La mia signorina cammina come una drogata, sorride distrutta con un mazzo di stelle in bocca. Che se fosse andato di moda farsi cappello azzurro, lei se ne sarebbe fatti rossi. Che se fosse andato di moda farsi cappello azzurro, lei se ne sarebbe fatti fucsia. Ho parlato di dolci tutta la sera, ho parlato di dolci tutta la sera. Dei bocchini di fiori che ci porto e un mazzo di spalle in bocca da rubarti ancora. Vedrai che il porto sembrerà migliore all'aperto. Non so, e c'è una giostra sulla piazza, sarà bella quando io ti sgraverò da dietro e ti lancerai la città sui capelli. Che oramai sogno incubo di femmine e pistole. Che oramai sogno incubo di scacchi e videogiochi. Che oramai sogno incubo di gore. Tra tra tra tra tra tra tra. Speriamo di scendere presto, forse quest'estate, se la stagione ce lo consente. Sì, sì. Se si può. Si può dire. Possono parlare. Ciao. Ah no, devo Hey.